Saltellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D, con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M. Cari amici, cari amiche, buonasera. Dalle frequenze di Radio Alma 101.9, in una giornata in cui il sole splende e ci avvolge con il suo calore e la sua luce, smettetela di ridere, grazie, ci avvolge col calore e la luce, ecco, vi invitiamo con una voce un po' spavente e un inizio un po' dolce e lento a questa nuova trasmissione di Bruxellando, una nuova puntata per stare con voi, per conoscere, per conoscersi, per conoscerci un po' meglio, non mi ricordo più bene come, per conoscere, conoscersi e conoscervi un po' meglio, e lascio la parola a chi non potrei non lasciarla, ecco, una donna che saluta da lontano come se fosse l'ultima volta. Come se fosse l'ultima volta, ti ricordo che sono sempre napoletana, anche quindi poco di cose. Cari amiche, cari amici, bentrovati, benvenuti, ecco. Spero tutto bene. Come state con questa pioggia straripante? Ma io avevo cominciato la puntata in modo molto tranquillo, rilassato. Ma tu mi vuoi far stare tranquilla? Se io non ci riesco, mi dispiace. Non rientra nel mio carattere. A parte invertite. Vuol dire inversi, invertite, ho detto inverte. Ma sai, hai fatto una sintesi precisa tra i versi e le virtù. Senti, queste sono cose mie, quindi te le lascio. Ma che bello, dunque, come i nostri teleascoltatori sanno benissimo, a noi piace celiare. George, con parole tue però, eh. Sì, a noi piace celiare. Celiare? Celiare, sì, e celiando col cavolo. Brussellando. Esatto, brusselliamo un po', è venuto un nudifragio incredibile. Ebbene sì, sarà il profumo di pioggia che questa sera ci ha un po' intontiti, può essere, no? Ecco, il profumo di pioggia, il profumo della pioggia, cambia se è in città o in campagna o al mare? Assolutamente sì. E com'è? Ma quello della città è un profumo urbano, che non ha nulla di che. Per me è un po' inurbano, ma comunque poi è una questione di gusti. Urbano di vigile? Esatto. Di sicuro non è tanto vigile con queste condizioni. Comunque no, il profumo della pioggia, il profumo dell'erba bagnata, il profumo del mare. Del mare lo sogniamo. Quando piove è bellissimo. Però qui in città purtroppo non si sente. No. Perché quando piove si sente l'odore di asfalto e purtroppo di ruote. È un odore strano quello delle ruote, strano, sono proprio sì. Di ruote, sono proprio di grigio. Vedo i nostri due grandi jazzisti che non so se stanno pensando all'asfalto o al profumo dell'asfalto. Secondo me non penso né all'uno né all'altro, comunque è una mia modesta opinione. E così adesso, d'improvviso, è così, d'amblè, chiamo in causa la redattrice e la conduttrice del Librangolo. Sì, dai. Vediamo lei cosa ne pensa. Una citazione sul profumo. C'è un libro che parla giustamente di stai parlando con me? Certo. Mi stai chiedendo una citazione? In maletta, sto chiedendo una citazione di un libro. Mi dispiace, ma io non riesco a citare di memoria il libro di Patrick Süskind. Mi dispiace. Mi piace, ma non l'ho letto mille volte. E quindi neanche un'immagine, neanche un profumo. Il profumo delle pagine, dai. Cioè, adesso mi vuoi rubare tutta la mia trasmissione? Cioè, la mia parte della mia trasmissione, me lo vuoi prerubare? Ma ragazzi, la voleva anticipare, allora. Sai? Lui è un curioso, ma ditemelo, curiosito. Ditemelo, che allora il tema di oggi è il profumo. Ah, come dobbiamo fare con te, George? È proprio un caso irrecuperabile, veramente. Altro che questo, questa sera, vedi, è proprio per te, perché sei proprio un fumo continuo. Vedi, attraverso il fumo, quindi diventi profumato. George, sai di bergamotto? Io ce l'ho profumato. No, stavo leggendo qua, evidentemente ha lasciato la trasmissione precedente qualcosa in una lingua che a me piace e che piace anche a una persona che è qui dentro. Potrei anche leggere d'una. Cin Srenia. Bene, guarda, Zato sì. Zito, uccimila. Lieto kamena lieto vore, lieto svirdienia, svratria siudom svenulist vonciccia. Bellissimo. Però potresti almeno tradurla, dai, per piacere non lasciarci, non lasciarci così con questo profumo. E la traduci senza leggere il testo a fronte. Beh, già sto a dire perché, però adesso dovrei trovare... Ma non è la parafrasi che si faceva a scuola, quando dovevi essere interrogato, Giorgio, a memoria. No, quello è un profumo di tempi andati, ormai non è più un profumo attuale. Il profumo dei tempi andati? Che profumo hai i tempi andati? Sai che è un profumo bello? Sì, ma dimmi, un po' di aggettivi, grazie. Oh, impossibile da descrivere, perché è una sensazione... Beh, ogni momento è il suo profumo. Però quello è un profumo passati, richiama un certo momento del passato. Beh, certo, richiama ricordi, richiama sensazioni. Siete bravissimi a evitare le risposte. La domanda è: che profumo ha il passato? Il passato ha un profumo di non profumo. Di passato? Di passato. Per me invece il passato. Per me è acre, Giorgio. Ecco, vedi che già comincia. Hai visto? Ma chiedi a Daniele che lui è bravo a descrivere. Cioè, magari questi... per qualcuno è dolce, oh. Esatto. Dipende. Dolce poi anche. Contesto. Beh, se è dolce può essere anche amaro. Esatto, dolce e amaro. Dolce e amaro. Questo è il mio concetto, il mio profumo, del mio passato, dolce e amaro. Con qualche punta, vorrei dirlo. Di che con cosa? Con qualche punta di erbe... aromatiche. Giorgio, meglio non entrare nei dettagli con le erbe. Di erbe aromatiche. Ma come un rosmarino. Esattamente, il profumo del rosmarino. Bravo. È veramente il profumo del rosmarino. Sai come hai fatto? Vedi, ricordi flash dei vari polletti, sai, che si odoravano da bambini in attesa. Invece il profumo dell'infanzia, il profumo dell'infanzia di Paolo. Quante domande che fai? Il mio profumo dell'infanzia sono i dolci che mi faceva mia nonna paterna, che faceva dei dolci di pasta frolla con le confetture fatte da lei, di prugne, di uva spina. Che bello. Che bello. Sì, questo me lo ricordo. E tu, Stefano, invece? Il ricordo del tuo primo luogo di lavoro. Beh. No, è perché sembra, no, uno dice no, luoghi di lavoro, ma cosa c'entra? No, perché sapendo il lavoro di Stefano, conoscendo il lavoro di Stefano, sapendo che era giovane quando ha cominciato, quindi c'è tutta una speranza, il luogo del lavoro non è tanto il luogo della stanza in sé, ma è ciò che la speranza allegava a quel luogo di lavoro. Quindi il profumo qual è? Il profumo che collego al luogo di lavoro sono i miei mesi trascorsi a fare il cameriere, quindi in cucina c'erano molti odori, senz'altro, solo che si portavano in tavola. Non è esattamente poi il lavoro che ho continuato a svolgere, però per certi aspetti ci sono dei collegamenti. E invece il profumo del primo giorno del luogo di lavoro dove lavori adesso, il primo giorno di lavoro, se lo ricordi. Bellissimo ricordo, perché finalmente hai un lavoro, quello per cui hai tanto lottato e sudato, quindi si ricorda solo l'odore piacevole degli uffici vecchi, ma che in questo caso ti aprono un nuovo mondo, quindi senz'altro piacevole. Poi in genere il profumo del passato è sempre un profumo piacevole, perché si tende, come tutti i ricordi, si tendono a togliere le cose negative, fortunatamente. Beh, mi piace molto questa cosa qua. La settimana scorsa c'è stato Mario Rigoni Stern, letto da Citran, che è molto bravo, ha letto Rigoni Stern in un modo fantastico. Era a Bruxelles? Sì, la settimana scorsa. Dall'Associazione Amici del Veneto e presso l'Istituto Italiano di Cultura, ma ci sarà un nuovo evento a breve, fra la prossima settimana avvertiremo su queste onde. A proposito di eventi, dai, ne vuoi ricordare uno? Al quale sai che mi sono anche già iscritta? Ho prenotato proprio oggi. Sì, sapere qual è. Indovina qual è, dai. Ah, no, questo qua non lo dico io. Non lo vuoi dire tu, no, quello? No, mi rifiuto. Vabbè, allora vedo Daniele che scalpita dalla regia. Quasi quasi lo accontentiamo. E comunque finisco a dire profumo, perché quello che mi piace molto, quello che ha detto Stefano, per profumo, luogo di lavoro, erano dei mobili vecchi, degli uffici vecchi, che però davano un'idea completamente diversa. E anche Rigoni Stern parla del profumo mentre se ne torna dalla Russia e scappa ai campi di concentramento. Quello sì che era un profumo. Sì. Mamma mia, mamma mia. Abbiamo questa bellissima base. È una musica, una base. Il profumo di lei, di bambini che corrono. L'aria sa di bucato e di te, e di te. Non si dimentica, questa è una regola, per chi ha dato poco niente. Qui, cari amiche e cari amici, Radio Alma, Brussellando, siete sempre in compagnia di questa variegata truppa sempre in movimento. Allora, per non dimenticare le buone abitudini di Brussellando, ricordiamo qualche evento della ricca agenda prevista fino a martedì della prossima settimana. George, mi vuoi aiutare che ci sono troppe cose? Adesso sono adesso sono distratto. Sei distratto? Adesso com'è che sei distratto? Io non lo so. Sto leggendo altre cose, quindi... Stai leggendo altre cose, va bene, allora... Va bene, ma sei schiavizzato, schiavizzato. Allora, il primo che raccontiamo è Andiamo a teatro, questo bel invito, ma insomma, ci fa sempre piacere invitare i nostri ascoltatori ad andare a teatro. Ma è questa cosa particolare, venerdì 26, sabato 27 giugno, quindi a fine mese, alle ore 20, al teatro Espace Senghor, che è un classico, c'è la Bottega Magica, che presenta un nuovo spettacolo che si chiama Carosello d'Amore, che è un insieme di pezzi di cabaret, e quindi un po' divertenti, un po' simpatici, e niente, questa è una nuova produzione e dovrebbe, almeno stando a quanto le notizie che abbiamo avuto, che siamo riusciti ad ottenere di sottobanco, dovrebbe essere uno spettacolo molto divertente, quindi io vorrei invitarvi. Perché andare a teatro è sempre bello, questa volta è cabaret, quindi è anche più divertente, quindi venite a teatro, anzi andate a teatro venerdì 26, sabato 27, veramente teatro Spasso and Go. Mi si dice anche che se qualcuno prenota entro il 15 giugno avrà anche uno 15% di sconto. Esatto. 15 giugno, confermo. 15%, molto bene. Io ci vado. Ah. Sì, ragazzi, Brussellando parteciperà compatta. Vabbè, Brussellando parteciperà compatta, sì, compatta. Andiamo. Io ci vado di sicuro. Compatta. Invece tu ci vai? Sì, io ci vado. Da solo? Ma non lo so. Come non lo sai? Forse di Brangolo. Beh, no, vado con Paolo. Vai con Paolo? Sì, certo, Paolo ha detto che vuole venire, quindi andiamo in due. Tu hai detto che avrà tutto Brussellando compatta, quindi è una domanda inutile. Ovviamente è una domanda inutile. Eh? È una domanda inutile. No, è una conferma. Ah, volevi una conferma. Certo. Quindi tu ci vai. Certo. Va bene. La serata strana deve essere la pioggia che entra nel cervello. È il profumo di pioggia che ci ha lentamente annebbiato la vista e tutti gli altri sensi. Allora, dovete sapere che è stato indetto recentemente, in collaborazione col progetto Babele Rivista Letteraria, il primo concorso letterario internazionale per racconti inediti. Per quanti volessero saperne di più, www.aow.com. La scadenza, quindi gli elaborati, dovranno essere inviati entro il 20 giugno 2009. La partecipazione è limitata a racconti in lingua italiana a tema libero di lunghezza non superiore alle 20.000 battute. Saranno selezionati 10 racconti finalisti. Ciascun testo verrà giudicato per l'originalità della trama e dell'intreccio, per la forma e la chiarezza narrativa. Il primo classificato verrà premiato con la pubblicazione di un volume di cui riceverà 50 copie omaggio. Quindi, per quanti volessero saperne di più, invitiamo tutti coloro che continuano a scriverci ancora a Brussellando, ricordiamo brussellando@gmail.com, a quanti volessero farsi conoscere, questa è veramente una ghiotta opportunità. Quindi www.aow.com, sembra un gioco di lettere, invece poi così non è. Invece a proposito di premi, l'associazione I Lucchesi nel Mondo ha bandito un premio sulla storia dell'immigrazione lucchese e toscana. e il premio intitolato Anilo Mazzanti, in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Regione Toscana, intendono ricordare in questo modo la figura di Anilo Mazzanti, che fu attento studioso della storia dell'emigrazione lucchese e toscana. Il premio intende promuovere l'approfondimento dello studio e della ricerca sulla storia dell'immigrazione. Possono partecipare al premio tesi di laurea in lingua italiana non pubblicate né in corso di pubblicazione. Il vincitore avrà un premio di 2.000 euro all'ordo delle trattenute di legge. Ragazzi, queste sono le cose che ci passano. Io dico tutti i dettagli, poi non vorrei essere accusata di aver detto cose non vere. Sì, c'è un premio con tutto poi quello che succede. Le opere vanno spedite entro il 20 settembre 2009 e a mezzo raccomandate e ovviamente accompagnate dal modulo di partecipazione. Non so per se saperne di più, lucchesi nel mondo.it. Io non capisco cosa susciti in voi tutta questa ilarità, ma l'immigrazione va trattata con attenzione, ragazzi, che è un fenomeno a parte che è ancora molto vivo e sentito in Italia. Però voglio dire, parliamone, ecco, insomma, per quanti volessero dire qualcosa, ringraziamo i lucchesi del mondo per averci pensato. Noi ancora non ci abbiamo pensato, quindi voilà, ed eccoci qui. No, io stavo pensando a quel premio con le tasse. C'è stato, no, italiane? Quel ragazzotto, quel cowboy che ha vinto questo mega premio negli Stati Uniti di 178 milioni. Al netto di quante volte lui? Al netto gliene arrivano 82. In tutto? Da 278 soltanto? Si passa a 82, non è tanto, Ma è un furto. È molto meno della metà. Scusi? Tantra, il mantra, no? Cosa? Gli altri soldi. Ah, altri soldi in che senso? Dove vanno? Ah, beh, sono tutte tasse. Vabbè, sono tutte nell'orario. Beh, ci sono sistemi vari, adesso non vorrei fare un escurso su sistemi impositivi mondiali, però. Beh, insomma, tu saresti uno specialista in merito, è vero? Potresti però ci sono dei sistemi impositivi progressivi, tipo quello, uno interessante anche perché il sistema impositivo. Vabbè, andiamo tutti a casa, dai, andiamo via. Chiudiamo brussellando. Allora, prima di passare la parola all'angolo del jazz, i sistemi impositivi comunque rispecchiano anche la cultura del popolo. Allora, giustamente. Io voglio fare un annuncio. Siccome siamo tutti in profumo di dichiarazione dei redditi entro la fine del 30 giugno, almeno per chi lavora in Belgio e ha un contratto belga, per ogni problema rispetto a questo profumo, Georges Laurent propone un ricevimento settimanale tutte le sere dalle 21 alle 22 ogni martedì sera, vero Georges? Sì, infatti faremo una piccola trasmissione giusto fino al 30 giugno che si chiamerà Il Piccolo Impositore. Tassando. O anche tassando. O come non tassare. Sottotitolo tassando. Tassiamo o non tassiamo? Vie e sottovie dei canali impositivi. Allora, visto che siamo in Belgio, vorrei ricordare ancora allora un altro corso. Stasera è stata una serata dei concorsi dei corsi. Dovete sapere che l'Università di Cagliari, unica.it, l'Università di Cagliari online, promuove dal 27 luglio all'8 agosto 2009 un corso di lingua italiana per stranieri. Beh, siccome in tanti ancora amano imparare la nostra lingua, è simpatico insomma ricordare, per quanti non sono mai stati in Sardegna, questa potrebbe essere effettivamente un'ottima occasione. Quindi dal 27 luglio all'8 agosto 2009 quanti volessero potranno quindi imparare l'italiano presso l'Università di Cagliari. Per quanti volessero saperne di più, ovviamente visitate il sito dell'università unica.it. La possibilità ovviamente del bando è in inglese ed in italiano. Beh, una trentina di artisti di ogni genere, stilisti, creatori di gioielli, accessori, articoli per bambini, decorazioni, espongono le loro ultime creazioni sui muri, tra i muri anzi, dei due anziani castelli d'acqua, torri d'acqua del XIX secolo. Di cosa sto parlando? Beh, sto parlando del mercato d'estate delle torri d'acqua. E va bene. Comincia alle 10 il mattino, ma finisce alle 18.30, come sempre, dal 13 al 14, cioè due giorni, solo due giorni, il 13 e 14 giugno, dalle 10 alle 18.30, questa trentina di artisti alle torri d'acqua che, come sapete tutti, sono al Bois della Cambra, prima della Belle Alliance 1. Giorgio, sei d'accordo con me che la fiera estiva Torri d'Acqua si dice molto con questo clima esterno? Sì, non è un gioco di parole, è una realtà, purtroppo. Mercato d'estate sotto torri d'acqua. Invece volevo ricordare ancora un altro anche evento. Anche me l'ha capita, Beh, ma ormai è stato ufficialmente adottato dal popolo italiano. Tra poco faremo anche, vero, richiesta di nazionalità italiana, credo che nessuno possa negartela. Invece secondo me, cioè, se, così. Imola, Imola, se, non, se non fai la brava ti spediamo all'Università di Cagliari dal corso per italiani. grazie. Invece, tra gli eventi, abbiamo gli eventi piemontesi, promosso dall'Associazione dei Piemontesi nel Mondo, in Belgio. Ne avevamo già parlato, ti ricordi, George? Questa mostra dal 13 maggio al 12 luglio, Piemonte Industria, un secolo di lavoro in fotografia, a cura di Niccolò Bidau, la Fonderie, Musée Bruxellois delle Industrie du Travail, in Rue Rensfort 27 1080 Bruxelles. La mostra si può ancora visitare da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 17, weekend e giorni festivi dalle ore 14 alle ore 17, chiuso il lunedì. A tal proposito vi sarà una conferenza il prossimo 22 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, ubicata in Rue du Trône 62 1040 Bruxelles, alle ore 19. Ragazzi miei, nolenti o volenti, si parla ancora e nuovamente di emigrazione, e questa volta ovviamente di emigrazione piemontese. Intendo da qualche parte che c'è un cambiamento di tappeto, quindi io come... C'è un cambiamento di tappeto? Eh sì, io volo, quindi... Si sta staffettando tutto. Oh, santa pace. Ebbene sì, e quindi io svolazzo via. Stai svolazzando via, come una farfalla. Flap, flap, flap. Si sente sottofondo. Vabbè. Stasera tappeto speciale, Paolo? Sì, non l'avrete riconosciuto, è della nostra vecchia puntata sui giochi. Questa sera invece vi parliamo di profumi. Eh sì, il profumo della musica, il profumo nella musica, certamente... Ci legheremo anche un po' ai film, in realtà, in questo caso. Non è stato un tema facile, vero Stefano? Abbiamo dovuto sguazzare un po'. Io avevo anche cercato qualche collegamento di gente che provava a fare musica combinandola al profumo, e c'è qualche artista matto che lo fa, ma di artisti veramente significativi è stato più semplice parlare di profumo quando era presente nei titoli. O... Però ci dà l'occasione di introdurre degli artisti, dei musicisti, grandi musicisti che non necessariamente appartengono al mondo stretto del jazz, ma che hanno dei collegamenti con il jazz. Il primo mi sembra molto significativo. Il primo è un grande esponente della musica pop, su tutto sommato, che però si è affacciato anche su altri mondi. Ed è David Sylvian. Beh, io sul pop però ho dei problemi a definirlo pop. E come lo definiamo? Ma è un misto, però non c'è tantissimo di pop. Sì, forse inizia con i Japan, quando erano ragazzini. Nel 1974 David Sylvian ha 16 anni e già hanno un gruppo e firmano un contratto per incidere, e cominciano a incidere questa musica, sì, che parte come pop, ma poi si mischia un pochettino anche con... Altri generi, costituisce un genere in se stesso. I Japan hanno sicuramente aperto una strada, tanto che la loro eredità poi viene raccolta, sia quella dei Japan che quella della carriera solistica di Sylvian, vengono raccolte essenzialmente, se bisogna individuare un genere che raccoglie, l'elettronica di oggi. Sì, sì, l'elettronica unita un po' all'ambient con la sua voce particolare, avanguardia, sì, insomma sono varie cose, si possono mischiare, però senz'altro è difficile da catalogare. No, io avevo una domanda. Ah, le domande di George. No, ha citato David Sylvian, quelli di Giappone, insomma, che non sono ricordi. E possiamo fare un paragone con i Tokyo Hotel, anche se siamo distanti. Tokyo Hotel a me sanno di un gruppetto per ragazzini, però noi non siamo mai preclusi, se tu ce li porti noi siamo... La differenza direi che è stata proprio l'evoluzione che c'è stata, cioè David Sylvian e... quelli che erano in Giappone hanno fatto delle carriere sicuramente non solo interessanti, ma anche di continua ricerca, di avanguardia direi. Anche Mick Harn stesso, che era uno dei bassista, Steve Jansen, che poi è il fratello di David Sylvian, e altre persone che hanno collaborato con lui sicuramente hanno fatto delle cose notevoli in seguito, quindi lasciando oltre la traccia di Giappone una loro traccia personale. Forse questo non è proprio il caso anche di altri gruppi che più o meno hanno iniziato con lo stesso genere. Poi insomma noi andiamo molto a gusti, come tu sai. Ognuno che bello. La musica va gustata in modo del tutto individualista, per noi non abbiamo nessuna pretesa di universalità nei nostri giudizi. Certo, adesso facciamolo. Facciamolo sentire, poi vedete un po' cosa ve ne sembra di questo David Sylvian. Cosa gli facciamo ascoltare? È il pezzo legato, si chiama The Scent of Magnolia, quindi il profumo della magnolia, tratto da un disco Everything and Nothing del 2000, David Sylvian. Da un disco del 2000 che era Everything and Nothing, questa era The Scent of Magnolia. E passiamo ad un artista che invece ha segnato la storia della musica in tanti modi diversi anche lui, ma iniziando forse non esclusivamente come musicista, ed è Michael Nyman. Michael Nyman ha prodotto moltissima musica di tipo anche diverso, ma secondo me possiamo un po' catalogarla in due gruppi. Lui è molto conosciuto sicuramente per le colonne sonore che ha fatto, soprattutto le colonne sonore di film di Peter Greenaway, e soprattutto anche conosciuto per questo pezzo per questa colonna sonora che faremo ascoltare oggi, che invece è un film di Jane Campion, un film famosissimo, The Piano, sì, famoso, multipremiato, e multipremiata anche la musica, la colonna sonora è uno dei dischi di colonne sonore più venduti, questo di The Piano, e con buoni motivi naturalmente, perché si legava benissimo al film, che era un film direi piuttosto triste, ma anche con queste atmosfere così Nuova Zelanda del tutto particolari, che si prestano molto alla musica, al tipo di musica che fa Nyman, è una musica minimalista. Esattamente, questo termine che usiamo quasi ogni volta che ci ascoltiamo assieme a voi un po' di musica su Radio Alma, l'ha inventato Michael Nyman quando tra gli anni 60 e 70 faceva proprio il critico musicale, ascoltando tanta della musica che in quegli anni facevano Steve Reich, John Cage, cioè tutti coloro che cercavano di spogliare la musica per scarnificarla e arrivare alla sua essenza percussiva e anche melodica. Sì, in realtà sembra una musica semplice, ma è molto complessa nella costruzione, perché è sempre denotata da una ripetizione di temi che però devono non annoiare, ma devono evolversi all'interno di un pezzo che ha una durata molto varia. Ci sono moltissimi artisti di grande livello, tu ne hai già citati due, c'è sicuramente anche John Adams, che io sicuramente metterei fra i minimalisti, c'è Philip Glass, che un giorno vi faremo sicuramente ad ascoltare, perché ha fatto anche lui tante di quelle cose che potremo sicuramente legarle a un tema. Certo, Nyman è uno che ha studiato un po' tutta questa tradizione, ha studiato anche il grandissimo innovatore, difficilissimo Stockhausen. Sì, che però non ha niente a che vedere con la musica che fa lui, perché Stockhausen fa musica un pochettino difficile da ascoltare. Dalla dodecafonica si tiene fuori, saggiamente. Adesso mettiamo il pezzo tratto appunto dal film The Piano, il pezzo si intitola appunto, per tenere il nostro tema, The Scent of Love, il profumo dell'amore, Michael Nyman. Thank you. Michael Nyman, che è l'inventore della terminologia di musica minimale, e in suo onore ricordiamo una serata che si svolge venerdì 19 giugno a Bruxelles dalle 18.30, una notte di musica minimale alla chiesa di Notre-Dame de la Chapelle, al quartiere de la Chapelle, appunto, 1000 Bruxelles, in occasione della festa della musica. Uno dei grandi artisti che si esprimono in questa notte minimale è Fennes, un austriaco che tra l'altro ha suonato anche col buon David Sylvian, che abbiamo sentito prima, per primo. Eh beh, ci sono sempre gli incroci, e l'incrocio che troviamo adesso con il profumo è legato al film. Quando pensiamo ad un film che, in cui si parla di profumo, col titolo di profumo, ci può venire in mente chiaramente il film tratto dal libro di cui sentiremo dopo parlare, oppure un altro film che è stato fatto almeno in due versioni. La prima di un italiano, uno dei grandi del nostro cinema al quale ci inchiniamo, che è Dino Risi. Profumo di donna. E la seconda, Scent of a Woman, negli anni 90, mi sbaglio? 92, sì, con Al Pacino che con quel film ha vinto un Oscar, in particolare il suo unico Oscar. Mentre la versione di Risi era con Gassman. Allora, come uniamo però adesso la musica? La musica, ovviamente la musica tratta da questo film, da questo secondo film americano, c'è una scena delle più importanti nel film, in cui Al Pacino, che è cieco, lo ricordiamo per chi non avesse visto il film, ma non vi diciamo tutta la trama perché altrimenti facciamo un altro programma che è di cinema, invece noi siamo al cinema, nel film, nella musica, una scena delle più importanti, c'è lui che balla un tango con questa giovane ragazza e lo balla in maniera impeccabile, naturalmente, bellissima scena. E la musica di chi poteva essere? Della stella forse più importante della storia del tango, cantato, che è Carlos Gardel, che è un po' il Frank Sinatra del tango. Io direi facciamolo subito sentire, poi diciamo una cosa: Carlos Gardel, Por una cabeza, dalla colonna sonora del film Scent of a Woman. Carlos Gardel, Por una cabeza, se aspettavate la voce in questo pezzo non c'è, perché appunto è usato come base per un ballo che viene fatto, un tango che viene fatto nel film. Molta altra musica di Gardel ha anche parti cantate. C'è una particolare su Gardel che forse potremmo dire, cioè quello che riguarda la sua nascita. Ah sì, questo è divertente, racconta. Perché non si sa bene dove è nato né quando è nato, però il problema è che la disputa su dove è nato non è proprio fra posti sempre vicini come Argentina e Uruguay. Esatto. Ma l'altro terzo posto che reclama la nascita è la Francia. Sì. Quindi ci sono delle idee un po' non del tutto chiare. Sì. E viene posta la sua nascita tra il 1887 e il 1890. Pare che in sostanza lui abbia falsificato un po' di documenti per far credere ai francesi che era cittadino sudamericano e così scampare l'obbligo militare durante la prima guerra mondiale. Un personaggio straordinario, Gardel, che tra l'altro presto nella sua carriera, nel corso di una lite in un locale, si prende un bel proiettile nello sterno e danneggia un polmone, insomma un avventuriero. Un avventuriero, sì, non ha vissuto a lungo, perché ha vissuto o 45 o 47 anni, dipende un po' da quando è nato, però insomma, ma diciamo in questa vita relativamente breve ha fatto un percorso musicale straordinario, lasciando una traccia ormai insuperabile nella musica sudamericana, in particolare il tango. Cambiamo, finendo totalmente atmosfera, con un gruppo rock degli anni 80-90 ancora attivo, che sono i Fish, un gruppo divertentissimo per la sua capacità di mescolare cose molto distanti tra di loro, e infatti in questo pezzo, che si chiama Scent of a Mule, cioè il profumo del mulo, per finire con la nostra carrellata sui profumi, mescoliamo addirittura un'ambientazione molto country nel testo, di una signora che cavalca un mulo, con un elemento fantascientifico, perché questa signora avvista un UFO. Beh, adesso infatti sentirete subito questa atmosfera, se ascoltate attentamente sentirete anche attraverso le onde radio questo profumo del mulo dalla musica che viene fatta. Adesso chitarre country e un po' di tastiere. I Fish, Scent of the Mule. Scent of the Mule. Avete sentito questo profumo del country, dell'America più profonda? Sì, bello, divertenti. Queste chitarre bluegrass ve le faremo risentire. Con questi profumi americani, sudamericani e anche europei, vi salutiamo. Da Stefano un saluto. E da Paolo, buonasera. A presto. Ciao. Ciao. Ecco, dal profondo. Neanche chiamandola arriva comunque e fammi fare la sigla. Deve cambiare il tappeto, ci sono dei momenti, ci sono dei legami. Senti, cambia la sigla, cambia il tappeto. Finalmente, dopo una bellissima pausa jazz, anzi un bellissimo pezzo jazz, io ragazzi spero tanto che questa cosa jazz diventi più grossa, più grande, un bel po' più grande, e con questo mi fermo, ma intanto diamo la voce al nostro Librangolo, che sono un po' strano su questa base, devo confessare, è un mega basoni si senti è diventata una base, è la base, ecco, cioè, griderò. Ecco, ecco, sarò più forte io sui profumi. Ecco, profumo di un piatto squisito, profumo di una donna, o profumo del dopobarba del primo amore, non lo so, cioè profumo che richiama memorie in vita. È ovvio che è anche un accessorio degli scrittori, oltre che un accompagnamento della nostra vita quotidiana. Quindi il primo profumo moderno, devo ricordarvelo, è stato preparato in Ungheria. Scusate il campanilismo, però lo devo dire. Non c'è nessun problema, io mi alzo e me ne vado. Cioè, all'ordine della regina Elisabetta nel 1370, anche se dopo si è trasformata in un'industria prevalentemente francese. Durante il Rinascimento il profumo veniva usato molto anche in corte, e soprattutto anche per coprire gli odori poco gradevoli, diciamo. E comunque si espanse, il suo uso si espanse, e la Francia rimase anche dopo il centro della profumeria europea. Io avevo una domanda, ma mi risulta che i profumi fossero anche prima, i romani, e anche prima. Sì, ma il profumo moderno, quello fatto con alcol, con questo e l'altro, è stato diventato... con alcol, ecco il punto, alcol, la base d'alcol. E quindi, siccome io parlavo dei francesi che praticamente sono diventati dopo l'industria del profumo, e quindi non è un caso che il romanzo di successo mondiale di Patrick Süskind, che abbiamo già un po' accennato all'inizio, Il profumo, il titolo, si svolge proprio nella Francia del Settecento. E il profumo era Cannella numero 5, il famoso Cannella numero 5. Ma che... cioè, c'erano delle poesie di profumo che non riusciamo nemmeno più a immaginare. Che dovenia. Capiro. Si tratta della storia di Jean-Baptiste Grenouille, che è fondamentalmente un criminale, però è dotato di un senso olfattivo fuori dal comune. Forse riscontrabile soltanto fra gli animali, ma neanche. Riesce a riconoscere tutte le sfumature e percepire odori per gli altri assolutamente irriconoscibili, però che comunque influenzano il comportamento umano. E quindi lui un giorno si imbatte nel profumo del fascino, della bellezza, del fascino. Lo sente su una ragazza che diventa la sua prima vittima. Dopo la sua vita cambia. La dedica ad imparare a fabbricare profumi, con il fine di poter replicare il profumo del fascino. Il suo cammino è seminato di vittime dei suoi sforzi, il frutto di cui è potente e terribile. È un romanzo originale, interessante e anche un po' inquietante, comunque ve lo raccomando. È anche più potente del film, direi, anche se il film coglie bene alcuni aspetti del libro. E adesso facciamo un grandissimo viaggio. E facciamo un salto dalla Francia, facciamo un salto in Giappone con il Shogun di James Clavell. Ciao. Le odori e i profumi fanno parte dello shock culturale dell'arrivo del protagonista in Giappone. Cioè, infatti, arrivato da un'Europa dove lavarsi e ventilare le stanze è considerato un pericoloso per la salute, all'inizio c'è bisogno proprio di forza per abituarlo all'usanza giapponese di farsi un bel bagno caldissimo ogni sera. Arrivare ad assimilare quest'usanza è uno dei tanti passi da compiere fino a cominciare a sentirsi a casa in questo mondo strano. Questa è una scalata più che un passo. E ma boh, cioè anche i veneziani vivevano così, eh? Cioè, non, sì, sì, sì, sì, ecco. Sì, sì. Ovviamente lo Shogun è molto più di questo, tanta avventura, intrighi politici e l'affascinante storia di un primo incontro fra l'Europa dell'Ovest e il Giappone feudale, isolato, fra incomprensioni, ammirazione, amicizia e amore. È bello. E poi c'è ancora la categoria che io nominerei romanzi culinari. Chi legge Chocolat di Joanne Harris sicuramente non può farne a meno di sentire nelle narici il profumo del cioccolato caldo e cercare di immaginare il gusto della bevanda con il chili. Leggendo Come acqua per il cioccolato di Laura Esquivel, i nostri sensi subiscono l'incantesimo delle complesse ricette messicane di Tita, che ha la capacità di esprimere il suo stato d'animo attraverso i piatti che prepara ed addirittura influenzare il comportamento di quelli che li mangiano. L'olfatto, invece, è fra i sensi più importanti per gli animali. Alcuni scrittori hanno cercato di inoltrarsi nel loro mondo, che noi non riusciamo a vivere di persona, ma che con l'immaginazione e la conoscenza degli animali si può rendere credibile. I miei preferiti di questa categoria sono Zanna bianca di Jack London, che racconta la storia di un'amicizia fra lupo e uomo, diciamo, dal punto di vista del lupo, e Non ridete Bambi di Felix Salten, cioè che mi è rimasto caro dai tempi dell'infanzia. Credetemi, il libro non è puerile di per sé, cioè anche no. Si indirizza ai lettori giovani. Dietro la trama c'è l'esperienza di un cacciatore appassionato e una conoscenza della foresta dell'etologia dei daini, diciamo. Ancora quando vedo un daino uscire su una radura mi viene in mente l'immagine suffusa di luce dei prati di Salten e penso alla direzione del vento che magari porta il mio odore nel suo naso. un odore forte, spiacevole, associato alla paura. È così, purtroppo per loro noi siamo così, molto probabilmente. Cioè, noi abbiamo paura dei daini, e i daini sentono che abbiamo paura, o noi abbiamo paura che i daini no, abbiano paura? No, sono i daini. Sono i daini che hanno paura di noi. Che abbiamo paura dei daini. Quindi in realtà i daini sentono l'odore della paura. No, supponiamo che tu sei con la tua mitica bicicletta, no? Sì. Sei in strada, fai 50 all'ora perché stai facendo la volata, ti passa un daino, sì, ti arrabbi, no? Beh, se mi passa in un momento così, cioè, se lo riesco a investire, anche a tramortire, in modo, preferirei un capriolo, perché ho capito, di capriolo, un cinghialozzo. A me è successo però una volta una lepre, sì, ho preso sotto una lepre con la macchina, e mi dispiaceva, perché però è successo, e devo dire che era anche buono. Beh, almeno quello, dai. Che dovevo fare? Scusate, non è che uno dice, beh, è morto, beh, lo seppellivo, cioè. Però è successo, capita, fa un caso. Profumo di ricordi. Profumo, questo, no, ragazzi, il profumo. Devo dirlo, perché no, questo non è pubblicità, perché non c'è più. Da Carletto a Edorode. L'unico posto dove, tanto non c'è più, si beveva Vin Clinton Taglià con l'uva fragola. Che però non si chiamava Bill. No. Clinton tagliato con l'uva fragola, che lo dava in ciotole, e si mangiava esclusivamente carne di maiale, Vin Clinton e patate fritte. Basta. Bene. Giorgio, ma qual è stata la situazione mentale che ti ha portato a pensare a questo tuo... La paura del daino è qualcuno che ha parlato di investimenti. E quindi chi è causa del suo mal, pianga a se stesso. E allora sì, prima di salutarci e di darci appuntamento per la prossima settimana, volevo ancora ricordare due eventi. Viva la musica, 2009 Latino America Total, 13 giugno 2009, dalle ore 20, guest star Rey Cabrera, direttamente da Cuba, in compagnia di Los Paraguayos, John Caligavana, Triana Flamenco, Viva Ballet, Sartagnani e tanti tanti altri, più di 40 artisti su scena e 12 paesi rappresentati. Per quanti volessero sapere di più, potete chiamare lo 02 523 45 52, quindi Viva la Musica 2009 presso l'Auditorium Jacques Brel Campus Seria, biglietto 15 euro. Beh, ci piace l'idea di questa bella musica. Sì, è molto interessante. Io non me lo perderei, Viva la Musica. L'ultimo, i flessi di Bruxelles. È l'ultimo, abbiamo ancora l'ultimo. 50 secondi. Fotografie realizzate praticamente grazie ai riflessi della pioggia. Facile. Sì, organizzata da Las Belles Hall Saint-Géry a Place Saint-Géry numero 1, 1000 Bruxelles, ingresso gratuito, quindi come tutti voi sapete molto spesso presso le Hall Saint-Géry ci sono queste esposizioni fotografiche, e questa volta è il turno dei riflessi di Bruxelles, dalle 10 alle 18. Mostra aperta il 5 giugno e sarà chiusa il prossimo 30 giugno 2009. Credo non ci sia altro da aggiungere. Sì, se c'è solo da dire che profumo, dai, lo dovevamo dire, profumo viene da per fumo. Io ci ho provato prima a darti l'assist, e tu eri distratto. Ero distratto, però è per ti ho anche definito attraverso il fumo. Esattamente, brava. Bene. Brava. E comunque, come già citavamo durante il Librangolo, i cosmetici profumati come il kifi erano già conosciuti e utilizzati dagli egiziani, quindi 5.000 anni fa. Pensa un po', viva Cleopatra. Però non in base all'alcol. Allora io saluto tutti, Daniele MRG, ovviamente Fiordalisi per il Librangolo, Stefano Paolo ovviamente, il mitico grandissimo Georges Laurent è là, e ovviamente ci risentiamo martedì prossimo. Buonasera e buona settimana a tutti. Ciao, benedì, grazie. Yo.